Io credo che sia onesto dire che gli spazi nel limitato tempo che noi abbiamo come governo siano molto molto scarsi. Credo che se ci sarà, sarà qualcosa anche lì di molto selettivo, qualcosa che può essere una boccata di ossigeno come quella che io spero abbiamo dato oggi al mercato del lavoro, ma non credo che si possa parlare di un programma di riduzione fiscale nei sei mesi, meno di sei mesi che ci restano. Ultima domanda, Ministro, riguarda quello che abbiamo visto oggi in piazza, queste tensioni, gli studenti che insieme ai precari sono scesi in piazza, dà l'impressione di una generazione che fatica a vedere il futuro. Lei ha qualche preoccupazione proprio a livello anche di tensioni sociali, visto che tra l'altro naturalmente involontariamente insomma, è stata protagonista, nel senso che hanno anche bruciato delle sue foto in piazza. Questo mi dispiace, io l'ho detto molte volte e non mi stanco di dirlo. Io sono aperto al dialogo con tutti. Devo anche dire, guardi, visto che sono alla radio, che una volta in effetti uno di questi ragazzi che aveva lanciato insulti pesanti è stato fermato e poi ha offerto al Ministro del Lavoro e al Ministero 100 euro di indennizzo. Io ho detto che per quello che riguarda il Ministero non decido io, per quanto riguarda me io i 100 euro non li voglio. Però voglio parlare con questo ragazzo e vorrei poter parlare anche con loro, vorrei che capissero l'onestà dei nostri intenti, vorrei che capissero che lavoriamo per il Paese. Lo so che è difficile per loro, perché la situazione è una situazione difficile, però e capisco anche che quando si è giovani la protesta è naturale. Però il dialogo deve sempre esserci e il dialogo è basato su un presupposto di apertura e di disponibilità ad ascoltare anche l'altro. Ma, io questa disponibilità la offro tutta. Ma lo vede questo incremento di tensione, Ministro? Ma io devo dire, l'ho già detto, che il nostro Paese ha dimostrato più di altri una coesione anche in momenti molto difficili che va riconosciuta al sindacato, va riconosciuta diciamo anche a tutti quelli che in qualche modo guidano queste opinioni collettive e quindi io penso che non sia neanche corretto insistere sul fatto che ci sono delle tensioni e io penso che bisogna, come ho detto prima, essere disposti a dialogare sempre. E che quindi se ci sono dei problemi, e ce ne sono, si possono affrontare. Gli slogan, brutti o meno brutti, non sono un modo per risolvere i problemi. E invece cercare di guardare all'interesse di tutto il Paese, non di singole parti. Naturalmente privilegiando i giovani proprio perché sono quelli che maggiormente soffrono, credo che sia un nostro dovere.